Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. A proposito del linguaggio non verbale, dei gesti di cui abbiamo parlato ieri, che dicono spesso più di tante parole, oggi partiamo e parliamo da un accessorio che ha tante cose da raccontare ed è a stretto contatto con ciò di cui ci occuperemo oggi. Parlo del cappello. Scalda sicuramente, copre, nasconde, ma al tempo stesso esalta, trasforma, identifica. Lo si scopre visitando una gradevolissima mostra che si è aperta da pochi giorni a Milano alla Triennale, che si intitola Il cinema con il cappello, Borsalino e altre storie. In linea con noi il curatore, il professor Gianni Canova, ordinario di storia del cinema e preside della facoltà di comunicazione dell'Università Ulm di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, la mostra racconta non solo la storia del cappello classico maschile in feltro, che ancora oggi porta il nome del suo fondatore Giuseppe Borsalino, ma propone, suggerisce tutte le evoluzioni e direi anche le deviazioni di cui il copricapo è stato e continua ad essere protagonista nella vita e nel cinema. Insomma, bell'idea, professor Canova, tanto di cappello, come si dovrebbe dire. Grazie, chapeau, come diciamo ancora oggi. Ed è singolare pensare come nel nostro linguaggio resti traccia di quel gesto con cui il visitatore della mostra viene accolto. Abbiamo montato un video in cui ci sono decine, forse centinaia di personaggi protagonisti di film che si tolgono il cappello accogliendo il visitatore. E ognuno lo toglie in modo diverso, perché Charlie Chaplin di Sherlock si toglie il cappello in modo differente da come se lo tolgono i Blues Brothers o da come se lo toglie Indiana Jones. Però non lo facciamo più perché non portiamo più il cappello, più purtroppo, però di quel gesto nobilissimo è rimasta traccia, perché diciamo chapeau o tanto di cappello di fronte a qualcosa che ci emoziona, a qualcosa che riteniamo il nostro rispetto, la nostra ammirazione, la nostra reverenza. Senta, professore, però lo sguardo dei registi si è spostato anche sui capelli, sul taglio, sul colore, anche le chiome, come il cappello, parlano, si trasformano, raccontano. Mi vengono in mente, non so, i capelli corti degli anni 20, quelli platinati della Jean Arlov negli anni 30, e poi il rosso fiammante con Rita Hayward, e poi Brigitte Bardot, e poi la Deneuve. Insomma, c'è questo occhio del regista che punta sulle chiome. Assolutamente, dicevo che oggi nelle sale italiane esce un film il cui protagonista è tale perché ha i capelli di un certo tipo, ed è il film di Antonio Albanese, che ha per protagonista questo politico che si chiama Cettola Qualunque, il quale ha una specie di nutria in testa, non è una capigliatura. Quando, come dire, i capelli già configurano l'identità di un personaggio, non c'è il cappello. I figli dei fiori degli anni 60, i primi anni 70 non portavano il cappello perché erano i capelli che davano loro l'identità, così come Rita, che riusciva a far passare il colore fiammeggiante dei suoi capelli anche nel cinema in bianco e nero, non aveva bisogno di cappelli, erano già i capelli a fare a parlare di lei, a identificarla. Certo. Identifica il cappello, la vostra mostra, dico vostra, la mostra che lei ha curato, che io invito i miei ascoltatori ad andare a vedere, perché noi diamo anche spunti di benessere, anche vedere una mostra un po' fuori dal comune che ci aiuta, no, a vedere anche che cosa può raccontare un accessorio che tutti noi adesso stiamo utilizzando per il freddo, ma di cui magari non abbiamo la percezione di quanto riesca a identificare. Il cinema invece lo dimostra, e quindi un invito a visitare la mostra. Un grazie a lei per essere intervenuto. Lei porta il cappello, oppure come li porta i capelli? Lo portavo quando ero più da giovane, adesso non ho più capelli e vado in giro in me a capo scoperto, ma dopo aver fatto questa mostra credo che mi comprerò un cappello un po' eccentrico. Grazie professore, grazie, buona giornata. Nicoletta, buongiorno a tutti. Don Giovanni senza una fresca, io senza te, uno scettro senza re, non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa. Non è soltanto un segno di protesta, ma è un rifugio per i insetti, un nido per gli uccelli che si amano tranquilli tra i miei pensieri e il cielo. Sono la parte di me che mi assomiglia di più, io vivo. La canzone di Nicolò Fabi ci porta al tema di oggi, che per molti è un problema. 800 24 00 24. I capelli sono importanti per molti. Avere i capelli giusti aiuterebbe anche ad avere successo, e l'affidabilità femminile si misurerebbe, secondo alcune ricerche, anche dal colore delle chiome. Ne vogliamo sapere di più? Allora ho invitato l'Enrico Finzi, che è un mio amico, ma soprattutto è sociologo. Enrico, ciao! Ciao a te, Nicoletta, e agli ascoltatori. Ai capelli hai dedicato molte ricerche. Meglio sì. Tanti belli e sani, biondi, rossi o bruni o brizzolati, l'importante è averli per avere successo? No, le ultime ricerche dicono che ci sono, come la storia per esempio del cinema insegna, anche dei calvi alla Yul Brynner che cuccano, che caspita, hanno successo con le donne, però i capelli sono importantissimi. L'ultima ricerca che abbiamo fatto per Alpha Farf mostra che l'83% delle donne e il 76% degli uomini, comunque grandissime maggioranze, dà grande importanza non solo ai propri capelli, ma anche ai capelli degli altri. E Nicoletta, la cosa curiosa è che una ricerca che abbiamo fatto qualche tempo fa per Pantene mostra che la gente è davvero tuttora convinta che, per esempio, il colore dei capelli indichi le caratteristiche, la personalità delle persone. Posso fare un esempio divertente? Certo. Allora, in questa ricerca per Pantene saltò fuori che gli uomini pensavano che le donne rosse ti tirano pazzo, ma sono straordinarie, eccitanti, eccetera, eccetera. Le donne bionde, e qui gli stereotipi contano, sono ottime amanti, ma sono le donne brune o castane quelle che bisognerebbe sposare, perché sono più fedeli, affidabili e probabili migliori madri dei propri figli. Come vedi, sotto il cielo non sempre le cose cambiano, per così dire. Ed è impressionante, perché i capelli sono non solo una parte importante del viso, e tenuti in ordine esprimono decoro, educazione e così via, igiene personale, eccetera, eccetera, ma in qualche modo sono una delle parti del corpo che in maniera sintetica raccontano della psicologia e della cultura, della personalità e dello stile di vita della persona. Chi mi ha preceduto parlava per esempio dei figli dei fiori. Beh, lì i capelli portati in una certa foggia erano una vera e propria divisa, servivano ad indicare un'appartenenza culturale e perfino politica. Negli anni 60 chi portava, anche se non era nera, i capelli come Angela Davis, difficilissimi da farsi se uno non è nera, sì, di un certo tipo, addirittura indicava un'appartenenza politica al marxismo rivoluzionario e femminista. Quindi i capelli hanno sempre detto molte cose di noi, non sono solo capelli, per così dire, sono la prima parte del nostro abbigliamento naturale. Grazie a Enrico Finzi per essere stato con noi, buona giornata. Anche a voi, grazie. Ciao, grazie. Allora, voi come c'era anche la canzone Come porti i capelli bella bionda? 800 24 00 24. È arrivato il momento di dare a voi la parola. Raccontateci come, non solo come portate i capelli, ma anche come li curate, se vi piacciono, ma se avete bisogno di una mano, di un aiuto. Siamo qui in linea con il dottor Fabio Rinaldi, dermatologo a Milano. Buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Una chioma sana si vede ad occhio nudo, dottor Rinaldi. Basta... Sì, si vede ad occhio nudo, perché quando si vedono dei capelli belli e quando i capelli sono sani, li si riconosce da lontano senza problemi. Senta, lei che di capelli se ne intende, rosse, bionde o castane? Il colore per lei, non come dermatologo, ma come uomo, poi andiamo anche al dermatologo, le dice qualcosa? Agli uomini piacciono le bionde, ma poi sposano le brune e si fanno incapricciare dalle rosse? Sentivo la ricerca con sospensi. No, per me è indifferente come uomo. Come dermatologo ci sono delle differenze, perché la melanina è diversa, tant'è che a seconda del tipo di melanina i capelli possono essere più sani o meno sani e quindi cambiare. Però per me è indifferente. Si dice ad esempio che gli occhi azzurri siano più delicati degli occhi scuri, certo, questo vale anche per i capelli? Assolutamente sì, i capelli biondi e i capelli biondo chiari sono decisamente più delicati, hanno proprio queste differenze di melanina, si chiamano in modi diversi, tant'è vero che le popolazioni nordiche, le ragazze bellissime con questi capelli biondi però molto fini e molto chiari, hanno dei capelli comunque più delicati delle popolazioni con capelli scuri e grossi, perché soffrono di più. Indipendentemente dal colore, sino a quando li abbiamo in testa tutto bene, ma quando li vediamo svenuti, caduti sul lavandino, imprigionati tra i denti del pettine, beh, qualche dubbietto nasce. Tutti noi perdiamo dai 10 ai 50 capelli al giorno, 70-350 alla settimana. Il distacco del capello destinato a cadere è favorito dai traumi meccanici, per cui la maggior parte dei capelli cade durante la spazzolatura e il lavaggio. Chi lava i capelli tutti i giorni conterà nel lavandino circa 30-40 capelli ogni volta. Chi lava i capelli più raramente perderà in occasione del lavaggio fino a 200-400 capelli. Così chi non si spazzola quotidianamente potrà perdere tutti i suoi capelli in occasione del lavaggio. Normalmente un capello cade quando il follicolo ha iniziato a produrre un nuovo capello pronto a sostituirlo. Tratto da Manuale Capelli Sani, quanto ne sai? Che potete consultare sul sito della professoressa Antonella Tosti, professore ordinario di clinica dermatologica presso l'Università di Bologna, www.antonellatosti.it. Ma se la caduta è più importante, non buttiamoci giù. La ricerca da anni lavora e oggi c'è una buona notizia. In linea il dottor Gianfranco Schiavone, chirurgo plastico, responsabile del Centro di Medicina Rigenerativa all'Ospedale IDI di Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Dottore, è una metodica nuova, si chiama PPR. Tradotto significa? Platelets Rich Plasma, oppure se volete in italiano plasma ricco di piastrine, così è più comprensibile. E di che cosa si tratta? Perché è una metodica che piace ai ricercatori, perché rappresenta un'alternativa a farmaci e trapianti, ma non solo. Certamente, non è solo un'alternativa, perché può affiancare le terapie che già sono comunemente in uso. È una interessante alternativa perché riguarda la possibilità che l'oggetto della medicina rigenerativa, che è una branca che è in crescita in moltissime, che ha tante applicazioni cliniche oggi, il cui obiettivo è quello di sfruttare le capacità delle cellule, dei tessuti del nostro organismo, di rigenerare e di curare altre cellule ammalate, oppure semplicemente ringiovanirle, renderle nuovamente produttrici, renderle nuovamente vigorose del nostro stesso organismo. La stessa cosa può essere applicata, lo stesso principio può essere applicato ai capelli, e per questo motivo da alcuni anni si sta verificando clinicamente l'ipotesi, e noi l'abbiamo verificata nel nostro ospedale con un'attività che dura da circa un anno, l'ipotesi di infiltrare alcune componenti del sangue, più esattamente degli emocomponenti ricchi di piastrine, e di mettervi a lavorare nel cuoio capelluto per far produrre dei nuovi capelli e per rinforzare fortemente quelli che si hanno. Tra l'altro state presentando i dati proprio in occasione di questo convegno che si sta svolgendo in queste ore, no? C'è il dottor Rinaldi, a cui partecipa anche lei, dottor Schiavone. Assolutamente, un convegno che mette anche il nostro paese, diciamo, un po' in linea con le ultime novità della ricerca. I dati sono molto promettenti, perché l'efficacia degli emocomponenti applicati alla alopecia androgenetica e quindi alla calvizie comune, ricordo che la calvizie comune può essere un quadro fortemente invalidante per la vita sociale, soprattutto in alcuni casi particolarmente complessi legati soprattutto alle pazienti femminili, alle donne giovani. Noi stiamo verificando una efficacia di questa terapia che viene vista, viene sentita positivamente da oltre l'80% dei pazienti. Quindi insomma è ancora molto presto per avere dei dati definitivi, ma i primi risultati sono molto incoraggianti clinicamente. Dottor Rinaldi. Sì, sì, sono d'accordo. Difatti, come fondazione, l'IHRF, che è la fondazione che presiedo, sta organizzando questo congresso, siamo proprio qui al congresso. Effettivamente, io credo che il plasma ricco di piastrine possa, che rilascia questi propri fattori di crescita, quindi è un'autoriparazione del corpo, una stimolazione delle proprie cellule con i propri sistemi, quindi a bassissimo rischio, anzi è quasi zero rischio perché è quello che circola nel nostro corpo. Si sta parlando ormai di questa medicina traslazionale, trasporto una parte di me da un'altra parte per poter avere un effetto terapeutico, quindi probabilmente appunto in questi minuti, in queste ore, stiamo discutendo su tutto un discorso di come può essere utile in dermatologia in generale e io credo nei capelli anche in modo molto particolare. Grazie, allora mi è andata via la voce dopo questa notizia. Grazie allora al dottor Schiavone, lo lascio al convegno e poi anche lasciamo libero anche tra poco il dottor Rinaldi, ma lo teniamo ancora un po' per noi perché dobbiamo dare modo ai nostri ascoltatori di sapere tutte le cose che si devono fare o tutte le cose da evitare. Insomma, vogliamo mantenere i nostri capelli belli, sani, fluenti, perché i capelli parlano di noi. Dottor Schiavone, grazie, buon convegno. Grazie, buona giornata, arrivederla. Andiamo a Ferni, ci chiama da Rovigo, 800 24 00 24. Ferni, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, mi fa molto piacere, la trasmissione mi interessa, è interessante sempre. Vi ascolto sempre, insomma. Ora c'è il dottor Bene, Rinaldi. Speriamo di non fare. Buongiorno. Sì, fermi. Interessante, sì. Vuol dire che non è barbosa, ma oggi parleremo un po' anche di barba, forse. Infatti. Fermi. Infatti, io mi trovo con 63 anni, con molti capelli, no? Non ho perso i capelli da nessuna parte, no? Sono sì. Molto folti e così, lunghi, perché li ho lunghi, porto il codino, no? Sì. E ho anche un po' di barba, quindi. Oh, dottor Rinaldi, ci sono sì. Degli uomini fortunati che, come dice Ferni, non hanno mai. Sì, i capelli si perdono, ma ne crescono altri. In questo caso, questo vuol dire un po' anche lo specchio della nostra salute. Sì, sì, sì. Il signore è molto fortunato perché comunque non è giovanissimo, non è certo anziano, però ha tanti capelli. Vuole dire che è struttura geneticamente. Sento una puntina di invidia, dottor Rinaldi. Si scopra sì. Un po'. Prima quando il professor Finzi diceva anche quelli calvi ogni tanto cuccano e dicevo meno male almeno, visto che però ha sicuramente tanti capelli, vuol dire che geneticamente i suoi capelli sono fatti bene e che lo stato di salute è buono. I capelli difatti, ricordiamoci, lo siamo già detti in altre trasmissioni, sono uno specchio, nel senso che se i capelli stanno bene vuol dire che tutto il corpo sta bene, se i capelli cascano c'è qualche cosa che non va, quindi vale la pena. Senta, però io mi ricordo, allora, ma Ferni porta il codino, molte donne anche legano i capelli con l'elastico, adesso non voglio essere gufo, ma attenzione perché l'elastico non è che faccia tanto bene ai capelli, vero? Sì, è vero, se la trazione, quindi l'elastico stretto e la trazione è particolarmente forte, in effetti danneggia sia il fusto e sarebbe un problema inferiore perché si possono rompere ma nel frattempo i capelli ricrescono, però se la trazione è forte possono addirittura cadere proprio i bulbi, cioè soffrire i bulbi e cadere. Allora ogni tanto sciogliete i capelli. Paola, sì. Da Pordenone, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione naturalmente. Grazie Paola. Io sono una donna ma volevo parlare dei capelli degli uomini sì. E mettermi un po' in contraddittorio con il professore perché parlo comunque per esperienza personale, perché io sono sposata da 20 anni e mio sì. Marito da quando ci siamo sposati ad oggi ha perso un bel po' di capelli. Però nella realtà dei fatti non ha perso la sua potenza o la sua virilità. Quindi tutto sommato a me gli uomini con qualche capello in me, dice no? Che, dire, mi segnalano una potenza superiore, non inferiore. Quindi prima di tutto vorrei dire agli uomini all'ascolto che non si disperino come fa mio marito guardandosi allo specchio e come dire vedendo che la sua chioma si è sfoltita. Ma soprattutto dire alle nostre amiche all'ascolto, Paola, se siete in cerca di un fidanzato... Scegliete non il cappellone, quello che ne ha un po' di meno. Ecco, perché è una garanzia. Grazie è un Paola. Garantito. Grazie Paola. Dottor Rinaldi, questa è una dichiarazione anche a lei, quindi sono d'accordo necessariamente. D'accordo necessariamente, io devo volare ai mercati, ho già il cartellino rosso. Sì, Fabio Cantadore in regia, ma Laura Vanossi mi schiaccia l'occhietto, per cui mercati meteo tornate 800 24 0024 giusto. Questo Giorgio Gaber, di cui io sento spesso la mancanza. Vabbè, ma questo è una parentesi. Antonella ci chiama da Roma. Dottor Rinaldi è ancora lì, non è ancora scappato al suo convegno? No, non ancora. Non si muova, non si muova di un pelo. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Che succede? Anche lei mi dice che le piacciono gli uomini un po' o rasati o caldi. No, mio marito ha tanti capelli e tutto sommato va bene lo stesso, anche se non è pelato. Antonella, no, allora io ho tantissimi capelli, veramente una chioma eccezionalmente fluente, questo è importante che lo spieghi, ma perdo tanti capelli. E quello che le cifre che indicavate voi prima, per me sono irrisorie, cioè io il triplo proprio. Però... E continuamente, io basta che me li tocco e subito... Cadono. Sì, due o tre almeno. Però evidentemente ne ricrescono rapidamente, no, proprio questo credo non è... Credo di sì che succeda questo, non vorrei che invece, siccome la cosa è legata a quanto ho sentito anche alla salute, mi preoccupavo, fino adesso non è stata una cosa preoccupante, se non per fatto con fastidio. Perché dottor Rinaldi, Antonella sta bella tranquilla con questa bella chioma fluente, poi ne ha tanti, ne può perdere anche un po' di più, no? Sì, chiaro. No, Antonella può stare sicuramente tranquilla, però è vero, i capelli cadono se c'è qualcosa nel corpo che li fa cadere, oppure come ha detto lei prima, se il ciclo è un po' troppo velocizzato cascano troppo velocemente. Allora vale sempre la pena, si chiama normalmente defluvium telogenico in termini tecnici, vale sempre la pena andare a farsi vedere dal dermatologo, perché potrebbe essere che ci siano magari piccole alterazioni della tiroide che funziona meno oppure del ferro che è più basso, però effettivamente pur avendone tanti, se il ciclo è così veloce vale la pena fare qualcosa. Però e qui ci riprendiamo ed è uno degli argomenti che tratteremo per esempio oggi proprio, il concetto di regolare il ciclo normale dei capelli, se stanno bene, non ci sono patologie, per dargli il tempo di vita normale, allora cascano meno velocemente, quindi rimangono su di più e quindi sono più sani ancora. E come si fa? Sì, ci sono per esempio, ma questi ci sono già in farmacia, ci sono dei prodotti che hanno dei fattori di crescita fatti in laboratorio, di sintesi, si chiamano mimicking growth factor, vuol dire mimano l'effetto dei fattori di crescita naturali e danno, regolano l'orologio biologico del capello, li fanno vivere nei tempi giusti e quindi cadono meno. Ah, ecco, quindi mi piace questa cosa qua, per cui i capelli, che al capello non venga in mente di suicidarsi prima del tempo. È un orologio che va troppo velocemente, va troppo avanti, allora lo si regola in modo che tenga il tempo giusto, se non so mai che ora è. Diciamo, capello, stai lì, devi ancora tenere qualche giorno. Ci chiama Patrizia da Teramo, buongiorno. Buongiorno, complimenti della trasmissione. Grazie Patrizia, i suoi capelli come stanno? Non lo so, nel senso che da giovane ho avuto il capello solo un po' mosso e dopo tre gravidanze mi è venuto tutto riccio. Beh, di solito i figli fanno venire i capelli dritti in testa, se a lei vengono ricci vuol dire che ha dei bambini bravi, riccissimi quindi oggi. Sono tutti ricci e quel crespo non lo so gestire perché non sono mai stata abituata e mi dà un po' fastidio. Dottor Rinaldi, di solito le gravidanze, dopo la gravidanza, nella fase di allattamento, noi donne perdiamo i capelli un pochino di più oppure non abbiamo più il capello bello, forte, sano, lucido. Patrizia ha cambiato, da mossi sono diventati riccissimi e fa fatica a tenerli. Ci sono delle indicazioni, i capelli molto ricci stanno bene o soffrono un po'? Sì, i capelli ricci stanno bene, a maggior ragione se nascono ricci, se si modificano vuol dire che le modificazioni ormonali conseguenti alle gravidanze le hanno modificato proprio la formazione del fusto, della struttura, però possono stare bene lo stesso. Diventa un problema cosmetico che non è da sottovalutare, perché se sono ricci magari si fratturano prima, a parte che rendono di più, sono più belli, sembrano di più, però vale la pena per esempio allora che utilizzi dei buoni cosmetici, ce ne sono ormai di meravigliosi, che permettono di magari renderli più pettinabili, più gestibili, più facili da trattare. Andrei a Luciano che ci chiama da Taranto. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Io faccio parte del comitato Pro Calvi. Pro Calvi, quindi lei sì, è... Sì. Io sono un calvo per volontà veramente, perché un po' di capelli ce l'ho. Solo che io volevo controbattere con il dottore che ha detto che sono fortunati quelli che hanno i capelli. E io non la vedo così. Allora, se parliamo per la tasca... Guardi che il dottor Rinaldi anche lui non è che proprio ne ha da vendere, di capelli. Anche lui porta acqua al suo mulino dicendo che, come mi scrivono le mie ascoltatrici, che l'uomo rasato o l'uomo calvo, insomma, attizza, c'è scritto. Meno male. Io faccio anche il buttafuori, sto in discoteca, dunque volevo protestare proprio per questo fatto, perché noi, insomma, cucchiamo parecchio, Ah sì, Insomma, ecco perché devo tirare l'acqua al mio mulino. No, ma poi noi siamo fortunati anche per la tasca. Perché non dovete andare... Ci laviamo, e ci laviamo tutto. Non abbiamo bisogno di fare shampoo, di andare dal parrucchiere. Dunque... Ma che fortuna, Luciano! Io sì, poi gli altri non lo so. Dunque, per farsi i capelli belli devono stare come fa mio figlio. Io ho un figlio che sta oltre 2 ore tra gelatina... Mamma mia, con tutte queste donne, che poi alle donne piace calvo. Luciano, meno male. Poi, insomma, non solo calvo, ma comunque, grazie Luciano per essere intervenuto. Abbiamo tantissimi messaggi, dottor Rinaldi, mi dice come facciamo a scegliere lo shampoo giusto, perché con tutte queste proposte, lo shampoo per i capelli grassi e quello antiforfora e naturale e da pH, insomma, non si capisce. Come si fa a scegliere, a capire che lo shampoo che stiamo utilizzando il nostro capello fa bene? Basta guardarli? No. Sì, anche, basta guardarli, anche se è difficile, perché la formulazione è sempre molto difficile, addirittura a volte è riportata solo la formulazione di che cosa c'è dentro, ma in termini chimici, quindi difficilissimo. Direi che devono essere shampoo di grande distribuzione o di farmacia, ormai ci sono delle aziende che fanno dei prodotti veramente buoni, che deve essere fondamentalmente neutro, la cosa è nota, ma l'addizione più facile è per lavaggi frequenti o contro la caduta dei capelli. Nessuno shampoo riduce la caduta dei capelli, quindi non ha mai un effetto terapeutico, ma normalmente uno shampoo delicato. Poi, siccome però sempre di più, ne avevamo parlato anche nella trasmissione l'anno scorso, credo, sono irritazioni della pelle, soprattutto in città inquinate, nel periodo invernale, quindi c'è questo scalpo sensibile, questo poi il capelluto diventa sensibile, e siccome c'è pieno di acari, di funghi, di microorganismi che ci irritano la pelle, magari una volta alla settimana, per chi se ne accorge, perché ha la pelle un po' più rossa, un po' desquamata, come se avesse la forfora un filino di più, può utilizzare quegli shampoo, per esempio antiforfora, oppure si va in farmacia e si chiedono quelli per la dermatite seborroica, che ripuliscono la pelle da questi microorganismi, e un altro shampoo alternando a shampoo delicati, magari un po' idratanti, che riescono a reidratare sia il capello che il cuoio capelluto con la maggior frequenza possibile. Più si tiene puliti i capelli e meglio è, e il cuoio capelluto e meglio è, esattamente come se parlassimo di igiene dentale, più laviamo i denti più teniamo gengive e denti sani, allo stesso modo per i capelli. Grazie dottor Rinaldi per essere stato con noi, buonissima grazie giornata. Grazie. Ma il lievito di birra fa bene ai capelli? Ne parliamo tra poco insieme al dottor Temporin, che ci suggerisce anche se è il caso di utilizzare degli integratori. Ma a proposito di integratori, quanto contano? In parte ne abbiamo già affrontato, ma affronteremo più nel dettaglio quanto i capelli ci danno, ci aiutano a sentirci sicuri. Lo sappiamo che i capelli li tocchiamo spesso, ce li acconciamo per dare un'immagine di noi. Vediamo a tra poco. Essere e benessere. Il lievito di birra fa bene ai capelli. Dottor Temporin, buongiorno.